Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Sono le 16:33 minuti, sono Luca Tremolada, siamo in diretta qui con Cristina Tagliabue, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, Nova Lab 24, oggi parleremo di Microsoft, parleremo di... Donne. Di donne, parleremo di guerriglia marketing. Anche. Parleremo di comunicazione politica, parleremo di un sacco di cose, ma prima le... com'è che le definiamo? Gli annunci? News. Le news. Nasce www.wetropolitan.blogspot.com, un esperimento bolognese che capovolge la M della fermata della metropolitana trasformandola in un blog. Il blog chiede agli utenti di inviare foto in cui la W, la M alla rovescia, campeggi in primo piano o anche sullo sfondo, come se fosse un monumento ambito o sgangherato, un posto dove farci un picnic o per darsi un bacio, raccontare storie reali o inventate di sana pianta, purché riguardino la fermata immaginaria W. Esce The Late, il diritto all'oblio nell'era digitale di Victor Meyer Schoenberger. Riflessioni su una società in cui dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma. L'autore cita Google, che nel 2007 ha ammesso di aver salvato ogni singola ricerca effettuata dai suoi utenti e ogni singolo risultato cliccato, conservando e organizzando qualcosa, come 30 miliardi di ricerche al mese e abbinando login, cookies e indirizzi IP. Un panorama inquietante in cui la vita dei web surfer è continuamente spiata e il diritto al cambiamento annientato. Da questa sera alle 21:10 inizia su Current TV Sky 130 un ciclo di documentari in prima visione dedicati alla scienza. Apre la rassegna Blast, l'origine dell'universo di Paul Devlin. Il regista racconta del lancio e del recupero di un telescopio che ha l'obiettivo di scoprire come si è formato l'universo. Il viaggio parte da una base artica svedese e finisce, dopo qualche giorno di volo, in una zona del Canada settentrionale. Le Monde lo ha definito una favola comica che denuncia come il marketing si sia impadronito dell'ecologia. Emily è un divertente libro che svela il futuro del pianeta seguendo i passi di una giovane materialista, fashion addicted e attratta dal successo, che vede nello sviluppo sostenibile una straordinaria opportunità di carriera. Il libro di Alice Audouin, manager del Dipartimento Sviluppo Sostenibile per Havas Media, convincerà il lettore che quando la pubblicità parla di ecologia è sempre meglio pensare male. È in corso l'adattamento cinematografico. Insomma, diritto all'oblio dell'era digitale è un tema enorme, importantissimo. Noi abbiamo qui tra l'altro anche Roberta Cocco di Microsoft, responsabile di futuro al femminile. In Italia c'è chi non è tanto d'accordo al diritto all'oblio, vorrebbe un po' metterle, ma perché su internet c'è tutto, cioè si può dire tutto il contrario di tutto, cioè può restare in rete una condanna, perché no, ma anche qualcuno che dice qualcosa su di te che non è esattamente vero. Come la vede? Ciao, innanzitutto, sì, ognuno ha la sua opinione. Io credo che il bello di internet sia l'assoluta democraticità di poter dire tutti quello che si vuole e mettere dei contenuti e magari anche contraddirsi, perché è umano, è normale. Il diritto all'oblio è un bellissimo tema, è la prima volta che ne sento parlare e quindi mi piacerebbe capire che cosa c'è dietro, no? Cristina. Ma io ho da raccontare una cosa personale, no? Che mi è accaduta. Io avevo una cara amica che è mancata 2 anni fa, si chiamava Pippa Bacca, ed è una persona nota. Beh, nel senso che è scomparsa. Hanno scritto i giornali, artista, esatto. È una storia che ha segnato. Esatto, vestita da sposa, è scomparsa in Turchia. Io su di lei avevo scritto, ma non solo, un sacco di email insieme a lei, il suo contatto su Facebook, i nostri blog linkati l'uno con l'altro, all'interno del suo sito internet, delle frasi, degli articoli che io avevo scritto su di lei. Ho guardato nella mia email e mi sono domandata: ma no, cosa posso ricordare? Cosa c'è di Pippa Bacca? Cos'è la memoria? No, mi rimane alla fine tantissima memoria digitale di questa persona, perché ci vedevamo poco, però quante cose ci sono nel mio computer di lei. E tra l'altro è tutte informazioni che restano nei server e che un giorno qualcuno, se spegne, li spegne, le spegne e le porta via. Il tema di che cosa, o il tema di chi deciderà cosa fare di questi ricordi digitali, di questa memoria elettrica, è un tema assolutamente di attualità. Nessuno ha un'idea chiara. In questo momento sappiamo che c'è Google che ha un'idea di organizzazione del sapere. Ecco, però sul tema della memoria, dei fatti, questo è un tema che riguarda le istituzioni, il giuridico, le persone, la cultura e le università. Pensa un po'. Ma peraltro siamo qui per parlare di internet, di memoria, ma insomma soprattutto di donne. Io do qualche dato semplicemente perché il rapporto, secondo il rapporto Istat, sono dati di fine dell'anno scorso, in realtà su internet ci sono il 49,8% degli uomini e il 39,4% delle donne, ma la differenza, la cosa simpatica è che cosa fanno gli uomini su internet e cosa fanno le donne, visto che siamo qui con Roberta Cocco di Microsoft, che ha fatto Web al Femminile, che è stata proprio un'iniziativa ieri e poi adesso ci racconterà i dati, che successo ha avuto, come è andata l'iniziativa. Mi faceva ridere capire che le donne, secondo le ricerca Istat, online cercano informazioni sanitarie, informazioni su attività relative a istruzione e corsi vari, cioè rispetto agli uomini molte di più, e così qualche informazione. Questo infatti è quello che cercano di più. Sì, queste sono le cose che cercano di più. Perché io per esempio uomini... che sono ipocondriaco, cioè sull'informazione sanitaria sono specialista, potrei scrivere ricette. Allora, questa è la domanda, cioè è vero che insomma c'è una specializzazione diversa tra gli uomini e la donna su internet, ma prima mandiamo una scheda che ci racconta un po' chi è Roberta Cocco. Roberta Cocco, 43 anni, approda nel 1991 in Microsoft Italia, dove ricopre i ruoli di direttore marketing centrale e responsabile di Futuro al Femminile. Giunto alla terza edizione, Web al Femminile è una kermesse online interamente made in woman, che vuole fotografare la donna valorizzando il suo ruolo nella società odierna e il suo rapporto con la tecnologia. La filosofia del web che abbatte le barriere e accorcia le distanze ha guidato il percorso di formazione di Roberta sin dagli anni dell'università, che oggi corre la vera gara per il raggiungimento delle pari opportunità, avvicinando le donne alla tecnologia. Il marito Fabrizio e i tre figli, Andrea, Anna e Tommaso, sono la sua vera fonte di ispirazione ed energia, che le permettono di affrontare i numerosi impegni professionali, come quello di professore di Brand Management e Comunicazione presso l'Università Luca di Castellanza. Allora, abbiamo dato anche due minuti di riflessione. Insomma, è vera questa divisione dei ruoli, dei generi, più che altro delle attività su internet? Allora, la nostra esperienza è questa. Le donne, diciamo come sono io, di mezza età, utilizzano meno internet. Noi non siamo native digitali, l'abbiamo imparato lavorando, magari appassionandoci a diversi temi, e lo usano prevalentemente per lavoro. Quindi ancora c'è molto divario digitale tra uomini e donne nelle fasce, chiamiamole adulte o mature. Molto spesso lo usano al 90% per il lavoro, però poi non ne fanno un uso per il personale. Le ragazze hanno completamente cambiato questa percentuale. Le ragazze giovani usano tantissimo le tecnologie, tantissimo internet, e ne fanno un uso diverso dai loro amici maschi. I maschi lo usano più per divertirsi, per cercare cose simpatiche, per giocare, no? Per utilizzare internet per giocare. Le ragazze lo fanno innanzitutto per comunicare, quindi l'utilizzo dei social network, del messenger, di tutti quegli strumenti che permettono la vicinanza, ma anche per fare ricerche per la scuola, per cercare informazioni, poi che si tratti di viaggi. Sorridevo prima a sentire Cristina dare quelle definizioni, perché sicuramente, se l'Istat lo dice, è giusto. Quello che noi vediamo soprattutto attraverso le indagini che facciamo con MSN, proprio per capire, e che è un portale che si rivolge spesso ai giovani, vediamo proprio un superamento da parte delle ragazze anche nelle percentuali di utilizzo, soprattutto nel tempo di utilizzo. Ecco, tra l'altro ieri c'è stato Web al Femminile, una kermesse da un po' di anni, insomma una 24 ore non stop. Che cosa avete imparato dopo 3 anni, cioè, di questo? Allora, abbiamo imparato che non possiamo solo mettere tematiche seriose e quindi dobbiamo affiancare temi seri e quindi contenuti, approfondimenti anche con qualcosa di un pochino più leggero, più brillante. Questa è la terza edizione di Web al Femminile, siamo molto contenti perché è andata proprio bene. Solo ieri abbiamo avuto più di 40.000 visitatori unici, ma il numero che mi ha stupito di più è stato quanti video sono stati scaricati. Abbiamo imparato che internet ha assolutamente delle sue regole, quindi pochi testi lunghi, poche spatafiate, ma molta interazione. È stato molto gradito il fatto che abbiamo, siccome il tema di quest'anno era la donna del 2010, come te la vedi, quale profilo ha, come te le immagini, abbiamo messo dei quiz che le persone, e quindi giocando... avete già una immagine della donna del 2010, sapete già dirmi com'è? No, è bellissimo, lo sapremo fra qualche giorno con tutte le analisi del sito. Certo, che stanno arrivando degli sms, c'è chi dice io internet sono maschietti, lo uso per il calcio, per altre attività così, insomma noi ci siamo arrivati prima e ci giochiamo un sacco con la rete, ecco. Cioè la ricerca della ISTAT dice che gli uomini scaricano software, utilizzano i servizi di home banking, ricercano informazioni su merci e servizi. Troppo buone. Cioè che gli uomini, no, perché mio papà è un patito dell'home banking e ci passa tantissime ore, però insomma noi facciamo anche cose un pochino più ludiche, diciamo più ludiche, va, che è meglio. Ma qual è che invece finirà il tema di Web al Femminile? Cioè, quando ci sarà, io le faccio la domanda, poi diamo subito la linea per il traffico, ma quando smetteremo di parlare di internet? Cioè, quando finirà l'internet al femminile e l'internet al maschile? Cioè diventerà semplicemente non un tema di cui parlare, ma un mezzo dove ci si confronta e dove poi fondamentalmente siamo tutti uguali. Nova Lab 24. Siamo tornati in studio, Luca Tremolada, 16:46 con Cristina Tagliabue. Che Cristina Tagliabue ha trovato una notizia in realtà sia stavi smanettando su internet, sì, vedevoli. Su internet, sul sito di Libri Blog. In realtà ho scoperto, almeno si dice così, stanno girando tantissimo la voce, mercoledì prossimo all'Isola dei Famosi potrebbe avere un nuovo naufrago al posto di Aldo Busi, si tratta dello scrittore Alessandro Baricco. Ma dai. Non ci posso credere, dai. Incredibile. Quindi bisognerà capire se Alessandro Baricco si presta ai reality, mamma mia. Torniamo invece a Roberta Cocco. Allora, ha ancora senso parlare di un internet femminile? Oddio, se Baricco va all'Isola dei Famosi non ci vale sono più. Tutto. Vale tutto, vale tutto. Allora, ancora senso sì, perché l'Italia è ancora drammaticamente indietro in presenza femminile. Siamo all'84esimo posto nel World Economic Forum per presenza femminile in politica, nei consigli di amministrazione, bla bla bla, e purtroppo non siamo ancora lontani da raggiungere il 60% di occupazione femminile come ci ha chiesto la Comunità Europea, per cui il tema ahimè è ancora scottante. Speriamo di rendere antico questo tema e quindi speriamo che la situazione cambi presto. È un auspicio, quello che noi facciamo è di portare il nostro modo di lavorare, quindi l'importanza della tecnologia anche a supporto di un tema così importante come quello della diversità di genere. Io ho in collegamento Martino Bellincampi, un uomo, finalmente, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è uno dei soci fondatori di YoYo ed è un creativo sostanzialmente e si occupa di comunicazione. Sì, YoYo comunicazione, c'è un accento diverso che però non viene mai azzeccato. Lo so, ma io ho anche dei limiti strutturali, cioè, no, non ti preoccupare, succede spesso. Allora, YoYo comunicazione si occupa di comunicazione non convenzionale e diciamo ci stiamo occupando. Voi abbastanza... avete fatto una cosa, cioè, che è interessante, avete fatto un guerriglia marketing e l'avete applicato alla politica, cioè a una campagna elettorale. Ci racconta che cosa avete fatto e se ha funzionato? Cioè. Dunque, vi racconto. Diciamo che campagna elettorale è anche difficile perché sono campagna elettorale con le preferenze, per cui poi l'obiettivo finale è prendere preferenze e questo chiaramente rende ancora più difficile una comunicazione più è non convenzionale. Allora, il guerriglia, per chi non lo sa, è una tecnica che tende a generare attenzione nel... queste persone che quando ricevono un materiale pubblicitario classico hanno già dei filtri che sostanzialmente annullano il messaggio, no? Se non per il posizionamento e il mantenimento del brand, per cui quando, nel momento in cui ricevo un volantino per strada, già so che pubblicità è già, quindi l'archivio non c'è. Ma ha funzionato? Invece, che cosa avete fatto esattamente? Noi ci siamo concentrati, abbiamo fatto una campagna sull'ecosostenibilità per un candidato architetto urbanista che si è occupato molto anche del tema dell'ecosostenibilità per la città, quindi abbiamo fatto una campagna DOC, si chiama DOC, c'è cioè un sito www.d-c.it e diciamo, la parte interessante è la guerriglia, in particolare abbiamo realizzato degli stencil coprendo alcune zone di Roma più sensibili, più interessanti, insomma, dal punto di vista mediatico, di posizionamento del candidato. Questi stencil sono compatibili, nel senso che sono fatti col fango. Cioè non per cui avete sporcato i muri sostanzialmente, però mandando dei messaggi. Con una forma definita, con una cosa carina, un disegnetto, no? Sì, così. Sì, delle icone che rappresentano il concetto di ecosostenibilità, per cui il trasporto su ferro, bicicletta, paleolica e albero. Tutto questo chiaramente è ecosostenibile perché terra. Ecco, qual è stata la reazione? Ce ne sono state diverse, sicuramente molta curiosità e sicuramente anche interesse. La campagna dal punto di vista della visibilità ha funzionato abbastanza bene, però chiaramente c'è stata anche qualche reazione negativa di qualche commerciante che un po' si è risentito, però quando gli abbiamo fatto vedere che in realtà è una roba che si cancella, una roba naturale, una roba che col tempo va via e che sicuramente inquina meno lo smog, no? Si sono placati. Ecco Luca, tra l'altro mi è capitato di essere a Roma e ho visto quindi queste foglioline appiccicate, molto molto simpatiche, appiccicate diciamo al palo di Ponte Milvio, quello dei famosi lucchetti di Moccia, no? Addirittura. Sì, l'altra cosa, oltre agli stencil, sono queste fogliette verdi che un po' arredano diciamo l'ambiente urbano e simulano diciamo un fiore, no? Per cui ecco, ma la domanda è: va bene per la pubblicità? Nel senso che di fatto il guerriglia marketing è qualcosa che mi stupisce, mi colpisce, magari mi infastidisce anche, però quantomeno deve ed è questa la sua missione, di catturare la mia attenzione, volente o nolente. Ma per la politica ha senso questo, utilizzare questo tipo di strumento? Cioè il candidato politico deve imporsi alla mia attenzione o devo cercarlo io? Non lo so, te lo chiedo. Ma la mia sensazione è che sicuramente quando il cittadino si interessa e cerca deve trovare risposte, ed è questo diciamo il procedimento migliore diciamo teoricamente, però quello che succede è che poi in realtà ci sono tanti esempi di buona politica che non sono per niente comunicati, condivisi con i cittadini, per cui questo può essere uno strumento che sia nello strumento ecocompatibile e sia poi porta avanti un'istanza importante come l'ecocompatibilità. È chiaro che poi la visibilità che ti danno i 4x3, questo è evidente, però è una questione di costi, è una questione anche di scelte che il politico può fare, diversa insomma, no? Questa è la tentazione. La politica in questo No, momento... allora aspetta, perché questa allora la Tagliabue è arrivata con un giocattolo per bambini che sta utilizzando malissimo, però è buon pesce d'aprile. Allora, perché? Tra l'altro, gli ascoltatori l'avevano capito subito, devo dire, sono arrivati una decina di SMS. Allora, Baricco, diciamolo, dillo tu. Vabbè, Alessandro Baricco, non è vero che va all'Isola dei Famosi, ma oggi è vero che invece è il 1° aprile e quindi noi di Nova Lab 24 volevamo festeggiarlo a nostro modo. Poi se mi avete sgamato subito, almeno speriamo di avervi fatto sorridere, no? Poi metti che ci va veramente, tra l'altro. Dai. Cioè avremmo fatto lo scoop vero, capito? Esatto. Inventandoci. Adesso poi però mi spieghi perché Baricco. Per la prima volta nella mia vita una notizia, riesco a prendere uno scoop vero, invece no, era un pesce d'aprile. Sarebbe stata la grande occasione, esatto, della nostra vita. Sarei diventata famosa. Va bene, scusa se questa stupidata, ma ci divertiamo anche così noi. Abbiamo interrotto un tema vero e serio come quello della comunicazione. Tra l'altro ci stanno sfumando. Grazie Bellincampi di aver partecipato. Speriamo che insomma i prossimi esperimenti di politica e guerriglia ce li verrai a raccontare. Io ringrazio Cocco per essere stato con noi. Ci sarà una quarta edizione? Sicuramente sì, siamo ancora lontane dal pensare che sia finita. E ringrazio naturalmente Cristina Tagliabue. A tutti un buon pomeriggio e al suo giocattolo. E buon pesce d'aprile. A domani alle 16.30.